si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un po' di corsa oggi sono arrivata, scusatemi. Ma ci mancherebbe, buongiorno a tutti e buona domenica. Però ero già qua, è che avevo perso un dettaglio, la scaletta, ma continuo a non averla, ma fa niente, perché ho tutto qua, tutto qua. 800 24 00 24, il numero verde per chiamarci e oggi partecipare all'indovinello, come l'abbiamo ormai chiamato. L'indovinello che consiste nell'indovinare il personaggio della settimana, quindi persona, maschio, uomo, femmina, donna, o evento, cosa che questa settimana, però quella che si è appena conclusa, bravo Carmelo Lauricella in regia, ci ricorda la nostra musica, la nostra dell'indovinello. Musica. Questo è quando sbagliate, invece quando vincono com'è? Cioè, è l'intero menù, è l'intero menù di tutta la giornata. Esattamente, bisogna indovinare insomma questo personaggio della settimana che abbia compiuto qualcosa nel corso della settimana, sia stato protagonista di qualcosa nel corso insomma, della settimana. Insomma, che ci sia una notizia positivo legata a questo personaggio e di solito, anzi non di solito, ve la chiediamo, quindi preparatevi in qualunque caso. Dopo, anzi adesso direi Laura vi darà il primo indizio. Vogliamo darlo già ma su? Sì. Ma sì, dai. Allora, il personaggio della settimana... Gli è successo qualcosa di inaspettato. Esattamente, ricordo ancora i numeri 800 24 00 24 per chiamarci e dare la risposta o anche per intervenire su altre cose di cui parliamo e 349 238 6666 per SMS, WhatsApp, sempre per intervenire, per sollazzarci, perché vi leggiamo. Per sollazzarci, ma dove l'hai trovato? Va bene. Sì, comunque vi leggiamo, questo è vero, è assolutamente, no, lo sapete, leggiamo tutte le volte tutto quello che possiamo leggere, tutto ciò che è leggibile, diciamo, ad alta voce. Carlo, ieri sera come hai trascorso la serata? Tu cosa ci porti questa settimana? Ma è di tutta la settimana, perché poi ci ho pensato, io non è che leggo tutte le 300-400 pagine di sabato. No, quindi, certo, però effettivamente... so che poi tu il sabato fai la chiusa, no? Esatto, quindi... esatto. In piedi, sul terrapieno, con lo sguardo concentrato sulla corrente del fiume, mi resi conto che, nonostante tutti i pericoli, è sempre meglio ciò che è in movimento rispetto a ciò che sta fermo. Che il cambiamento è sempre più nobile della stabilità. Ciò che non si muove è soggetto alla disintegrazione, alla degenerazione e a ridursi in cenere, mentre ciò che si muove potrebbe durare addirittura per sempre. Così scrive Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura 2018, nel suo bellissimo I Vagabondi, edito Bompiani. È un libro veramente sorprendente, anche nella sua forma. È il romanzo vincitore dell'International Man Booker Prize 2018, premio molto prestigioso, eppure sfugge anche alla classificazione di romanzo, perché non ha una vera trama o dei personaggi. È un libro fatto di centinaia di brevi testi, alcuni veramente brevissimi, tipo una, due righe, altri invece di 4-5 pagine, che si può leggere tutto di seguito o anche spizzicare, sbocconcellare, aprire alla bisogna, come si suol dire. Che bello quando si può fare l'apertura di libro così. Esatto, esatto. Qualcuno dice anche che è un libro di viaggio contro i libri di viaggio. Io non sono molto interessato a trovare un cassetto o un'etichetta in cui ingabbiare i vagabondi. Anzi, voglio testimoniare il gorgo bellissimo nel quale mi ha fatto scendere, accompagnandomi, indicandomi dove posare lo sguardo, ma lasciandomi anche spesso per i fatti miei, come solamente una viaggiatrice esperta sa fare. Si parla di spostamento, di relazioni, di migrazioni, dell'arte del vagabondare tenendo gli occhi spalancati sul mondo, ma ci sono anche storie che si compongono di diversi pezzulli, quindi che iniziano magari a pagina 27 e poi proseguono a pagina 181, o aneddoti, osservazioni personali come se fossero appuntate su un taccuino. Io amo moltissimo, devo dire, i libri fatti di pezzulli, ma questo è un libro così ben scritto e congeniato e intelligente che mi sembra adatto anche a chi invece di solito vuole solamente dei romanzi. Ed è pure molto ironico e autoironico e divertente. Chiudo con un altro pezzettino di due righe. Gli ostelli andrebbero citati in giudizio per la discriminazione in base all'età. per quale che strano motivo fanno pernottare soltanto i giovani. Sono loro stessi a stabilire i limiti d'età e si può star certi che un quarantenne non riuscirebbe mai a entrarci. Perché i giovani dovrebbero avere questo trattamento speciale? Non ci pensa già la biologia a ricoprirli di privilegi? Effettivamente, effettivamente, ma neanche a farla apposta, io ti ho portato un grande viaggiatore adesso. E io ne sono un felice. Un grande viaggiatore per mestiere, per dovere, che però insomma approfitta di questo suo viaggiare per compiere anche delle buone azioni. Marco Ferrari, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Autotrasportatore. Buongiorno. Che organizza in supporto alla Caritas il trasporto di medicinali, per esempio, verso posti remoti nei quali appunto magari si trova a passare con il suo automezzo. Come funziona questa iniziativa, così come l'ho descritta? Sì, più o meno sì. Così comunque la faccio velocissima. Noi siamo un gruppo di camionisti e autisti, e ci dividiamo così, camionisti e autisti. Organizziamo da tanti anni, noi li chiamiamo raduni, e si chiama, il nostro gruppo si chiama Tartaruga Track Team, proprio per dare un senso alla lentezza della cosa. E ma qual è la differenza fra camionisti e autisti? Il proprietario di camion e chi guida il camion di un altro? Esatto, sì. Ah, perfetto. Per non fare discriminazioni, noi ci chiamiamo camionisti. Giusto. Però è giusto dire ci sono anche autisti, perché non si potrebbero anche offendere, perché qualcuno è anche permaloso, perché insomma la professione. Vabbè, detto questo, comunque, giusto. Torniamo, abbiamo fatto praticamente questo gruppo tra amici, sì. Si chiama questo Tartaruga Track Team, abbiamo organizzato per tanti anni dei raduni. Adesso ci siamo un attimo fermati nell'organizzare, andiamo ad altri raduni per partecipare, e quando facciamo queste cose ci siamo resi conto che abbiamo raggiunto dei gruzzoletti consistenti. Tutto è iniziato da lì, perché poi abbiamo deciso cosa facciamo. Noi viviamo in un paese sull'Appennino tosco-emiliano, e una realtà piccola, dunque ci conosciamo un po' tutti. Da lì abbiamo cominciato questo gruzzoletto a dire, doniamolo a qualche tipo, la Croce Verde locale o a qualche ente locale che facesse sul territorio, diciamo, il benefico. Poi parola, passaparola, e adesso in questo momento noi stiamo organizzando un po' con la Caritas, perché la Caritas è qua del nostro paese, diciamo, che fa un bel lavoro, e loro quando fanno la ricerca di materiale alimentare, materiale vestiario, quello che è, in giro un po' per dappertutto riescono a raccoglierlo. Noi, dando una mano, lo andiamo a recuperare e lo consegniamo a questo ente. Non è un granché, sono piccole cose, noi non facciamo, non è una fatica, perché ma il mondo si fa sulle piccole esatto, cose, non è esatto. Che bisogna sempre iniziare dal grosso, sennò poi non inizia nessuno. Ma devo capire se ho capito, nel senso che voi da un lato avete tirato su un gruzzoletto perché avete questo gruppo, il Tartaruga Track Team, sì, esatto. Che ovviamente ha troppe R per me, ma esatto. Lo accetto lo stesso, e d'altro lato invece voi avete deciso di aggiungere dell'altro lavoro, insomma, nel senso che oltre a dare questo gruzzoletto, voi avete deciso insieme alla Caritas, tutte le volte che loro hanno bisogno di trasporto, che ve ne occupate voi. Esatto, poi io le spiego, perché tutto è anche nato, io un po' di anni fa, come poi si può anche chi ha la memoria della brutta guerra che è stata, diciamo, nei paesi dell'est, in Bosnia per essere precisi, mi è capitato di fare un viaggio di medicinali organizzato sempre dalla Caritas qui a questo posto, però stavolta era di Reggio Emilia. E io ho fatto quel viaggio lì e insomma è stato bello per gli aiuti, ma forse è stato più bello per me, nel senso che mi ha dato tanta roba, e questa roba qua dopo viene voglia di fare anche piccole cose, ma ti fa star bene. Far piccole cose ti fa star bene, molto meglio che un'aspirina. Ma mi scusi, ma voi già quando andate con il camion portate anche medicine, oppure fate proprio dei viaggi ad hoc? In quel caso specifico è stata fatta una raccolta, si chiamava una montagna di aiuti, sì. Certo. E c'era dentro di tutto, ok? Di tutto. Chiaramente per fortuna adesso non ce n'è più un'esigenza, diciamo in Europa, parliamo di Europa, non c'è più l'esigenza, perché per fortuna non c'è più questa cosa qua. Però le dico, come prima dicevo, che se loro hanno bisogno, guarda, abbiamo trovato, faccio l'esempio, un bancale di farina, ci regalano un bancale di farina al mulino tal del tali, e non sappiamo come fare a prenderlo, noi passate organizziamo, prendiamo e via, portiamo su e consegniamo. mi hanno regalato, non so, scatoloni di vestiti. Passiamo, prendiamo, prima con la nostra rete io chiedo al mio collega: ascolta, dove sei? Sei a Torino? Mi fai piacere, mi prendi su due cartoni là, facciamo più o meno questa rete qua. Ah, vedi, è perfetto. Tra di voi è bellissimo, certo, siete dappertutto, quindi esatto. Potete poi prima o poi vi incrociate, no? Perché poi alla fine vi trovate da qualche parte. Sì, no, guai, poi adesso ormai vi scambiate nelle piazzole degli autogrill degli scatoloni di medicinali in cambio di... Può capitare. No, guardi, se posso dire una cosa, io non la trovo per niente una piccola cosa, perché ha fatto proprio l'esempio giusto. Magari c'è qualcuno che vuole donare un sacco di farina, e il problema è che un sacco di farina, se poi uno deve pagare il trasporto, gli conviene neanche andare a prenderselo, e quindi in realtà non è per niente una piccola cosa il fatto mettere insieme queste realtà, ovvero chi vuole donare però magari non ha la possibilità di trasportare da solo due sacchi di farina dal suo paese fino alla sede della Caritas, quindi esatto. È un grandissimo servizio. Allora, io sai cosa mi è venuto in mente? Che gli alberi dell'Expo di Milano furono portati a dimora proprio con questo sistema. C'erano alberi che non potevano chiaramente sopravvivere lì a Milano, in quell'area che poi veniva comunque dismessa e che comunque non erano alberi adatti al nostro clima, e grazie a una rete di autotrasportatori furono portati chi a Palermo, quindi anche lì c'era stata una rete di questo tipo che era stata utile anche in quel caso a salvare degli alberi, nel vostro caso a portare aiuti laddove sono necessari. Io lo trovo molto bello, grazie mille. Dico solo l'ultimo, per favore, di cronaca. L'ultima che abbiamo fatto, che è molto toccante questa. Abbiamo un collega che collabora con l'ospedale di Parma, l'oncologia per bambini, e una domenica mattina ci siamo presi sui trattori, noi i trattori e la motrice, diciamo, il trattore, siamo andati davanti all'ospedale, abbiamo caricato una decina di bambini con 10 mezzi e abbiamo fatto il giro, scortati dalla polizia, il giro di Parma, perché è stato lì la situazione. Abbiamo fatto il giro di Parma e con questi bambini che non avevano mai visto un camion, che erano praticamente estasiati, hanno fatto una domenica fuori dall'ospedale. È stata una cosa da lacrime, però è stato bellissimo, e anche una di queste è una cosa che è piccola, perché cosa vuole? Non è niente andare là con un camion, non è niente. Però bisogna pensarci e farlo. Va bene, vi lascio che... Non è niente, è permesso dire non è niente solamente a chi l'ha fatto realmente, direi, e invece la ringraziamo moltissimo anche per questa storia, perché anche questo invece è tantissimo, dieci bambini all'oncologico che non hanno mai visto un camion, che hanno la possibilità di passare, a parte che posso dire, mi divertirei moltissimo anch'io. A fare un pomeriggio su un camion, poi non ho la patente, quindi sarebbe veramente ragione. La ringraziamo moltissimo. Anche a voi. Complimenti giornata, Marco Ferrari. Diamo il benvenuto a Franco dalla provincia di Bari. Buongiorno. Lei è già in linea per l'indovinello. Attenzione, siamo già avanti nella puntata. 824-0024 per tutti coloro che volessero prenotarsi, sempre che Franco non indovini alla prima, esatto. Quindi vediamo. Ci dica tutto, Franco. Per me sarebbero quella coppia di cinesi che sono venuti in luna di miele in Italia e sono rimasti trombati, poi sono andati a finire in ospedale, poi li hanno rilasciati. Per me sarebbe quella la soluzione del quiz di oggi. Allora, la notizia c'è. Gli è successo qualcosa di inaspettato, ha ragione Franco. Assolutamente, questo non c'è dubbio. Sentiamo il notaio. Non erano loro, anche se il modo in cui ce li ha raccontati ci ha fatto assolutamente ridere. Molto ridere, e la ringraziamo di aver chiamato. È da ridere. Ciao. Grazie Franco. Arrivederci. Di abilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way. He knows his mind. Allora, ci ha introdotto il nostro ascoltatore Franco al prossimo tema, ha posto la questione in maniera buffa, però esatto. Insomma, tanto gli sorridere. Ascoltiamo che praticamente a seconda di chi chiama noi facciamo la scaletta, quindi è bene. Beh, che certo. Tu dici non avevo la scaletta, perché la scaletta la inventi, vero, qua la in diretta. La sto costruendo in diretta con te, con gli ascoltatori, chi pone una questione, tac tac tac tac. Quindi adesso parliamo per l'appunto di questo coronavirus e soprattutto delle implicazioni che ha sulla comunità cinese che risiede in Italia da anni, che non ha insomma probabilmente nessuna occasione di contagio, immagino che le probabilità siano bassissime, e di alcune campagne che sono partite, una campagna lodevole ad esempio partita dalla Francia per ricordare appunto che avere un'origine cinese non vuol dire essere di per sé portatori di questo virus. Ne parliamo con Teresa Lin, che è consigliere comunale a Prato. Buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Buongiorno. Lei tra l'altro è la prima consigliera comunale in Italia di origine cinese, ma ci piaceva con lei affrontare questa questione. Ve l'ha sentito un po' addosso, ve l'ho sentito un po' addosso questo stigma, oppure no, magari in Italia cioè, se ne parla, ma poi alla fine nei fatti non è così, non lo so. Sì, purtroppo diciamo che io personalmente non ho avuto casi simili, però sento parlare di persone che purtroppo a causa di questo virus si sentono un po' vittime di razzismo, di odio da parte di altre persone. La vostra comunità a Prato in particolare è particolarmente no, consolidata, riuscite a parlare insomma con gli altri e far capire che la situazione non è di allarme come alcuni pensano che sia? Diciamo sì, stiamo cercando un po' di comunicare questa situazione, ma in realtà perché a Prato c'è una comunità cinese da tanto tempo e insomma c'è un po', diciamo finora c'è stata un po' di integrazione tra le due parti, perciò per le persone che sono più vicine alla comunità cinese in realtà non c'è questo problema, ma secondo me la paura proviene soprattutto da coloro che insomma non conoscono bene questa comunità e la loro conoscenza viene un po' dalle notizie, da quello che viene detto sui media, e purtroppo questo tempo, durante questo periodo gira la notizia del coronavirus e perciò c'è un po' questa paura verso i cinesi. Ma riuscite a organizzare qualcosa di specifico magari sul territorio per spiegare, per parlare, oppure no, non lo ritenete necessario, ecco? So che molti insomma anche stiamo cercando, cioè per ora non abbiamo organizzato eventi specifici, ma comunque perché durante il Capodanno cinese noi si era cancellato solamente la sfilata del drago e gli altri eventi che erano legati con il Capodanno cinese c'erano comunque stati, e questo era un po' per cercare di dire che in realtà non c'è tanto questo rischio, diciamo, del coronavirus qui a Prato. Sì, visto che ne avete parlato, scusami, Carlo, no, solo una cosa. Ne avete parlato anche in consiglio comunale recentemente? In consiglio comunale noi non ne abbiamo discusso. Non è venuto fuori il tema esattamente, però c'è stata una comunicazione da parte del nostro vice sindaco sul tema. Sì, in realtà ci sono stati dei consiglieri comunali che hanno fatto richiesta di un consiglio sì, comunale straordinario, giusto? Che poi però non è passata come richiesta. Comunque questa è una, insomma, è un po' un tema della commissione 5 e eventualmente lo discuteranno in commissione. Sì, in realtà almeno noi, per come abbiamo letto la notizia, ci sembra sbagliato renderlo tema di uno scontro politico, nel senso che se diventa di nuovo semplicemente il fatto di dire loro, noi, hanno portato, ed è lì, e soprattutto ricordiamo che comunque sul tema della sanità se ne occupa la regione, non il comune, quindi appunto rischia di diventare semplicemente dell'allarmismo. Poi giustamente, come stava dicendo lei, sul coronavirus è vero un po' che un po' se ne sa, un po' non se ne sa, quindi è anche comprensibile che qualcuno apre il giornale, legge sul giornale, c'è scritto viene dalla Cina, e uno semplicemente si preoccupa, nel senso che non è una questione secondo me di razzismo in quel momento, è semplicemente che dobbiamo un po' spiegarla. Io trovo molto, c'è stato un tweet che ha girato moltissimo in questi giorni che mi sembra molto esemplificativo, si svolge a Pesaro la storia, dove c'è un ragazzo cinese che sale sul treno e una signora che dice ecco adesso ci ammaliamo tutti, e il ragazzo cinese che è di Pesaro dice signore io la Cina non l'ho mai vista in vita mia, l'ho vista solamente su Google Maps, cioè non è che se sei cinese vuol dire che vieni dalla... esattamente, quindi poi è ovvio che è più facile che persone che hanno spesso rapporti con la Cina siano entrate in contatto con il virus, ma non è il tratto somatico indicativo, esattamente, il discrimine, quindi su questo mi sembra importante ricordarlo. Sì, certamente, questo insomma noi dobbiamo, perché alla fine parlarne tanto, noi dobbiamo aspettare le notizie di le persone che sono esperte nell'area, perciò le notizie, le comunicazioni ufficiali da parte insomma di quelli che se ne occupano, e in realtà secondo me a livello insomma in consiglio comunale parlarne alla fine non raggiungiamo a qualcosa di veramente insomma che abbia un effetto, non so se mi capite, insomma sì. Secondo me sì, sì sì, va bene, il consiglio comunale creare questo allarmismo. Ma lei ha parenti in Cina? Sì, ho la mia nonna in Cina. E là come si sta? Come se ne parla di questo virus? La mia nonna sta a casa, perché ora praticamente tutti quanti, anche per precauzione e per paura, stanno tutti quanti a casa per un po' di tempo, per tutto il periodo del Capodanno cinese. Certo. Sì. Teresa, grazie molte allora, grazie della sua testimonianza, buon lavoro a Prato e buon proseguimento. L'hashtag che non abbiamo nominato, però c'è chi volesse appunto farlo girare. Allora, qui forse se la tua conoscenza del francese è più adatta, diciamo. Io non so il francese, ma comunque je ne suis pas un virus. O virus. Comunque la R è perfetta. Comunque vuol dire io non sono un virus, giusto? Esattamente, hashtag, non sono un virus. È una foto che ha fatto il giro di Twitter, è Lu Chen Wang che fa una foto con un cartello su se stesso dicendo sono cinese ma non sono un virus, e questo je ne suis pas un virus è diventato un hashtag che ha molto circolato negli ultimi giorni. Io tra l'altro ho visto sotto, leggendo un po' di commenti, no, sotto su Twitter, ho visto anche appunto che alcuni segnalavano che pur avendo tratti somatici asiatici non sono necessariamente cinesi. Certamente. Di Wuhan, cioè della città in questione, quindi uno diceva io sono vietnamita, io so, e chiaramente questo non è modo di distinguere le cose e neanche di prevenire, ecco, la malattia, semplicemente chiudersi e... Sì, sì. Visto per dimensioni è molto chiaro, è come se un cinese leggesse di uno svedese che ha avuto una strana cosa e improvvisamente vede un calabrese e gli dice ah sei tu, e lui dice ma veramente io sono calabrese, cosa c'entro con gli svedesi? Esattamente. Abbiamo in collegamento per indovinare il personaggio della settimana Massimo da Vicenza. Massimo, buongiorno e buona domenica a tutti. Buongiorno. Buona domenica anche a lei Massimo. Allora, che idea ha sul personaggio della settimana che è stato ha avuto qualcosa di inaspettato, ecco. Sì. Beh, io ho pensato a Valentino Rossi, perché per tanti anni aveva la squadra, aveva la moto e improvvisamente si è ritrovato senza squadra. Certo. Beh, è vero, in effetti è stato un sorpresone per lui. Adesso vediamo un po' cosa dice il nostro notaio su questa cosa. L'inflessibile Carmelo dice no, non è lui, non era Valentino, però siamo contenti di ricordare Valentino Rossi, una moto la troverà, detto così, insomma, diciamo... Ma no, ma di moto ne ha anche ne lui, no, a qualcuno, casa sua, esatto. Il problema non era quello, il problema non è possederla, ma è giusto. Avere quella, la prima. Esatto, moto. Esatto. Va bene Massimo, grazie molte. Allora, subito dopo GR24 daremo il secondo indizio, direi che forse è opportuno, ma subito dopo GR24 parleremo anche di un altro grande tema del nostro tempo, quello di potersi togliere, scomparire da internet, specialmente quando su di noi ci sono notizie false o notizie vecchie superate dagli eventi successivi. Quindi direi che il cosiddetto diritto all'oblio, dopo ne parliamo, e parliamo anche di last minute sotto casa, che è uno dei nostri temi, spreco e comprare con lo sconto alimentare. Cose che non sono ancora scadute. A tra poco GR24. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura, 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Piace? Molto. L'ho scelta io questa, perché ieri tutti i quotidiani britannici titolavano "È l'alba di una nuova era", e allora a questo punto io ho detto: ma c'è una vecchia canzone degli Specials che sentivo in campeggio, eh? E quindi abbiamo tirato fuori "L'alba di una nuova era", un po' di ska tra l'altro ci sta, no? Parlando di Gran Bretagna, quando mai? Assolutamente. Ce ne possiamo separare dallo ska parlando di questo argomento. Ora arriviamo a quello che tu hai anticipato poco fa, ovvero a parlare di spreco alimentare, o meglio di lotta allo spreco alimentare. E ti presento Francesco Ardito, buongiorno. Buongiorno Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Un super ascoltatore di Radio 24, lo dichiaro. Francesco Ardito però è anche il fondatore di piattaforma, non lo so, un'app. Come lo voglia, un'app, una rete, non lo so, insomma adesso poi lui ci dice tutto. Comunque, Last Minute Sotto Casa, il nome è già noto probabilmente ai nostri ascoltatori, ne parlammo quando fu così presentata al pubblico anni fa, nel 2015 in particolare, e poi dopo Last Minute Sotto Casa si è evoluto, prima si parlava solo di negozi di quartiere, adesso siamo arrivati a comprendere anche la grande distribuzione organizzata, cioè i supermercati. Ultima evoluzione, Francesco, per l'appunto, è questa, no? Assolutamente sì. Giusto per ricordare a chi non conosca, ovviamente non saranno pochi, la nostra piattaforma, la nostra applicazione Last Minute Sotto Casa. Non essere modesto, dai, su. No, l'idea, appunto, come giustamente hai ricordato, venne lanciata nel 2015 con l'obiettivo di aiutare i piccoli negozi di prossimità, quindi panetterie, gastronomie, macellerie, verdurieri, a non sprecare quelle piccole quantità di cibo che però messe insieme tutti i giorni facevano comunque un totale molto grande. Certo. L'app è cresciuta, diciamo, come diffusione un po' in diverse parti d'Italia, e c'è stato un momento molto importante, come a volte avviene anche casualmente. Proprio a Expo, presentando il progetto, una realtà grande, una realtà, un'azienda day che si occupa di buoni pasto, probabilmente molti la conosceranno, che è sempre attenta ai discorsi della sostenibilità, e quindi parla tutti i giorni con negozi che accettano i buoni pasto, quindi negozi di prodotto alimentare, ci incontra e dice: ma più volte che noi abbiamo ricevuto un po' un messaggio, cosa possiamo fare per gli sprechi? Per arrivare a che cosa? Al punto che alla fine del 2018 c'è stato un matrimonio, diciamo, nel senso, tra noi e questa azienda, che è un'azienda molto grande, che ha acquisito l'app. cosa succede? Abbiamo fatto proprio un matrimonio con tutte cose quasi in scadenza, spero che abbiate festeggiato. Ma sì, in effetti, Carlo, dico proprio che la settimana, cioè il 13 abbiamo lanciato con una conferenza stampa il progetto a Bologna, perché si ripartirà forte da lì, proprio chiudendolo con un momento dove si sono cucinati tutta una serie come buffet di cibi e prodotti alimentari che erano quelli in scadenza di quella giornata dai supermercati. Quindi e questo è perfetto. Ricordiamolo, sì, è perfetto, perché se fai un buffet il 13 è ovvio che tutte quelle cose, cioè tutta roba che scade il 14 va benissimo per quel buffet. Quindi assolutamente, anche 15, voglio dire. Quindi per ricordare solo come funziona appunto la plus minus sotto casa, il negoziante che ha un prodotto alimentare è in grado di tranquillamente inquadrare un prodotto con un codice a barre, quindi trovare subito l'immagine, la foto, la descrizione del prodotto, descrivere esattamente quanti prodotti sono rimasti e qual è lo sconto. Lo sconto sui prodotti è sempre del 40, 50, 60, sotto il 40 non si può andare più. 40 per contratto, insomma, diciamo, se no non possono stare sulla piattaforma. C'è proprio un bottone sull'app, non puoi schiacciare nulla di più piccolo di 40, per cui questo proprio per dimostrare giusto. Che un prodotto che rischia di essere, diciamo, cestinato purtroppo, e quindi è giusto metterlo a forti sconti. Soprattutto per evitare anche che qualcuno usi la vostra app semplicemente per far conoccere il proprio negozio e mettere su una cosa con il 2% di sconto, in realtà per attirare, perché lo fate con un pensiero sano, sanissimo. Però in più, scusa se ti ho interrotto, in più la vostra app, se non ricordo male, manda l'avviso di questo sconto ai cittadini che si trovano nelle vicinanze. Assolutamente. Stavo perché questo perfetto, perché questo è un pezzo grosso in realtà, perché sennò uno dice vabbè, c'è uno sconto a Pescara, non è che invece la cosa sana è che è quelli nelle vicinanze. Assolutamente, il cittadino appunto quando scarica l'app deve indicare solo dove abita per geolocalizzarsi, eventualmente anche dove lavora, due posizioni e dove si trova. E qual è la distanza da dove si trova da casa che vuole tracciare? Quindi se io metto 500 metri, solo le offerte entro 500 metri da me mi raggiungeranno. E come ecco, diceva, di questo prego. Però sono molto contento, perché la domanda che mi ero preparato era ma come funziona, nel senso che avevo pensavo che voi chiedeste a tutti gli utenti di condividere la propria posizione continuamente, cioè di dire sono qua, adesso sono qua. No. Invece in realtà uno può mettere due posti, cioè il posto di lavoro, perché magari esce dal lavoro a quell'ora e c'è i negozi che stanno chiudendo, oppure sotto casa sua. Molto, molto saggio anche questo. Assolutamente, e come diceva Laura, appunto, noi siamo partiti e continueremo soprattutto a gestire rapporti con i piccoli esercenti, che sono poi, se vogliamo, anche la vita dei quartieri. Però abbiamo ragionato sul fatto che sempre più, non per cattiva gestione, ci mancherebbe altro, ma un supermercato deve darti talmente tante gamme di prodotti, qualità diverse, dimensioni diverse, bio, non bio, che è lì che rischia di esserci maggior spreco. E quindi abbiamo cominciato, in particolare Bologna, l'Emilia Romagna, che è l'area su cui punteremo di questa, diciamo, ripartenza forte, e sono entrate una serie di supermercati che sono sempre più vicini ai cittadini, sempre più piccoli, in particolare siamo partiti col gruppo Sigma, altri ne aggiungeremo. Quello che voglio dire è che è importante è che questa app è gratuita certo. per il cittadino, è gratuita per l'esercente, e soprattutto tu Carlo hai detto una cosa importante, per creare questa vicinanza ovviamente abbiamo bisogno che ci siano negozi e cittadini. Io mi permetto di dire ai cittadini che vorranno scaricare la nostra app gratuita, parlate nei vostri negozi di fiducia quando andate a fare la spesa, usate un proprio bottone invita negozio che abbiamo messo nell'app, diventerete sicuramente più parte attiva e sarete poi i primi a beneficiare di offerte dai vostri negozi di fiducia a metà prezzo, a due passi. È giustissimo invece. I negozi pagano per stare su questa piattaforma? No, proprio come dicevo adesso, questa grande realtà vuole dare proprio un servizio agli esercenti che più volte avevano chiesto quale fosse il problema, per cui non abbiamo assolutamente in programma di far pagare, non c'è bisogno di firmare contratti o dare dati di carte di credito, basta registrarsi, usarla e come dice aiutiamo tutti insieme anche tutti. A diffondere questa. E infatti è molto bello perché voi dite la nostra app è win win win, con un win in più, che però non è una cosa banale, perché i due win di solito come sempre sono i contraenti del contratto, quindi è sia il consumatore sia il negoziante, ma qua c'è un terzo che è l'ambiente, quindi mi sembra molto bello questo fatto di mettere tre vittorie e anche il modo in cui giustamente lo stai spiegando spiegando adesso, cioè andate nei negozi dove siete abituati ad andare e consigliate questa cosa, che può sembrare una cosa piccola, ma questa cosa ce la siamo già detta nel 2015. Bravo. E adesso questa persona che ce l'ha detto nel 2015 parla con i supermercati, quindi funziona questa cosa di anche dal basso, anche da proprio certo. Il proprio negozio sotto casa, anche, guarda, esagero, anche quel posto che tu dici lì ci sono delle pizze buonissime, però mi sembrano un po' care, io cerco di convincerlo a farlo perché magari una volta alle 7:15 mi mangio la carciofi e funghetti. Aggiungo solo un'ultimissima cosa, Carlo, proprio per quello che hai detto tu, abbiamo, prima non c'era nella versione precedente, c'è proprio un bottone invita al negozio, basta cliccare mentre sei certo. Il negoziante. Pensavo che ci fosse il bottone pizza, funghetti, carciofini, quello sarebbe straordinario, no, ma arriverà. E l'ultimissima cosa è che proprio il fatto di esserti spostati sempre più anche verso i piccoli supermercati di quartiere ci consente di avere una grande varietà di prodotti che vengono messi in offerta. Da noi c'è la totale trasparenza, si vede proprio la foto del prodotto, il prezzo ufficiale, il prezzo finale 50%, e per dire, le offerte di ieri c'era del prosciutto cotto, gnocchi alla romana, salmone affumicato, yogurt, mozzarella, cioè tutti i prodotti che se scadono domani o dopodomani sono assolutamente ancora buoni e freschi da consumare stasera, e perché no farlo a metà prezzo per aiutare, ripeto, il proprio portafoglio e l'ambiente. Certo. E l'ambiente, anche perché appunto sono tutti rifiuti meno e sono anche costi per i negozianti e per la grande distribuzione che vanno sostenuti nel momento in cui queste cose vengono gettate via. Last Minute Sotto Casa, mi chiedono di ripetere il nome, non è ancora un servizio nazionale, però tenetelo d'occhio perché pian pianino cresce. Direi che presto diventerà mondiale, ma ci sono anche persone che litigano per questa cosa, cioè, perché prima quando hai detto c'era del cotto mi immaginavo 8 persone tutte che volevano il cotto. Ma tieni conto di una cosa, che l'applicazione consente agli esercenti in qualsiasi momento di premere un bottone e segnalare appunto che quel prodotto è andato. Non c'è più. Perfetto. Per cui accendo un pulsante rosso vicino alla fotografia del cotto con scritto prodotto esaurito. Magnifico, grazie tardi mille. Arriva male alloggia. Grazie Francesco Ardito, buon proseguimento. Grazie. Alla prossima, noi abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il momento britannico si è esaurito. Ho sentito che si è fine. È la Brexit. È sono andati. Sono andati. Siamo andati. Ormai siamo in campo americano. Tu abbiamo... dici anche 3 anni e mezzo di saluti. Anche basta. Anche basta. È durato abbastanza. L'app si chiama Last Minute Sotto Casa. Lo ridico, ma poi lo troverete su Facebook. Esatto, sulla nostra pagina. Esatto. Quindi trovate e sui tutto nostri lì. Account personali. E sui nostri account personali e su quello di Francesco Ardito, sicuramente. Stefano D'Ascoli Piceno è in attesa di concorrere per il nostro gioco. Sentiamo un po' chi è secondo lui il personaggio della settimana. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io credo che sia Pier Camillo Davigo, il magistrato che a seguito, diciamo, dell'anno giudiziario che si è inaugurato, ha avuto una protesta da parte di avvocati. E quindi inaspettato, lei dice questo. È inaspettatissimo, secondo me. Sulla questione della prescrizione, di quello stavamo parlando? Sì, mm-hmm. Assolutamente. Sentiamo sì. Il nostro notaio. Il nostro notaio, che è più inflessibile di Pier Camillo Davigo, dice che non è Pier Camillo Davigo. Però la ringraziamo di aver chiamato. Grazie Stefano, grazie. Allora diamo il secondo indizio, Carlo, perché mi sembra che stiamo un po' brancolando, no? Molto. Quindi, volentieri. Oltre ad essere inaspettato, il nostro personaggio è fortunato. Alla luce di questo secondo indizio, infatti Davigo era un po' fuori. Assolutamente, direi. Se volevi squalificare Davigo, l'hai fatto. Allora, quindi è successo qualcosa di inaspettato, è fortunato, e 824 0024 è il numero di telefono al quale prenotarsi per cercare di indovinare il personaggio della settimana. Nel frattempo noi diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Luca Tomassini. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Luca Tomassini è fondatore e presidente di Vetria, che è un'azienda in provincia di Orvieto, nella zona di Orvieto comunque, è una grandissima azienda dell'IT e fatte di tutto, no? Contenuti addirittura per il Vaticano attraverso di voi vengono diffusi in tutto il mondo, piattaforme, lavorate con internet, giusto? Possiamo metterla così genericamente? Mettiamola così genericamente. Dai. Se no fate troppe cose, c'è un elenco davanti complicatissimo. Sì. Una precisazione, certo. Però bisogna farla, perché Orvieto non è provincia, è una piccola cittadina. Ha ragione, cittadina di sono ignorante. In Umbria, no. È bene precisare. Ha ragione. Bene. Allora, siete un'azienda di questo tipo che ha uno spazio per il digital detox e partecipate a iniziative che incentivano un po' il digital detox. Ad esempio la giornata della disconnessione del 1 marzo. Vi piace tirarvi la zappa sui piedi, viene da dire? Sì, sembrerebbe un paradosso, perché chi fa digitale di fatto, no? Fa un'area di disintossicazione digitale, è un po' un paradosso, però devo dire che è una cosa molto utile, perché noi, l'uomo, l'umano ha bisogno di disconnessione, di disconnettersi dalla rete ogni tanto. Noi siamo partiti con un esperimento con quest'area, che è un'area sostanzialmente disconnessa dalla rete, non ha copertura radioelettrica, non c'è wifi, non c'è tv, non c'è la connessione, non c'è nulla. Mi viene da fare una battuta, come in un sacco di posti in Italia, perché non è che siamo avantissimo con la nostra connessione in confronto agli altri paesi, però però questa è stata voluta, esatto. E devo dire che i nostri ragazzi la utilizzano, perché è un momento di relax, un momento di riflessione, si scambiano un po' di idee. Ecco, è tassativamente vietato portare all'interno smartphone o tablet o computer, qualsiasi dispositivo elettronico. Ah, proprio, anche non si può nemmeno averlo con sé, non solo è scollegato. Viene lasciato fuori da questa area. Perché siete giustamente degli esperti, dici, lavorano degli esperti che conoscono anche l'offline e quindi in qualche modo se no riuscirebbero sicuramente. Sarebbe assurdo andare lì per poi aggirare e cercare da lì di connettersi, sarebbe veramente esatto. Il massimo, no? Certamente. Dunque lì essere sconnessi e stare in quell'area lì consente una serie di altre attività, tra cui chiacchierare per esempio con i colleghi o con, visto che voi avete siete molto aperti anche alle famiglie dei dipendenti, chiacchierare e scambiarsi delle idee, farsi venire magari una soluzione che stando davanti alla scrivania non veniva in mente, oppure leggersi un libro, un giornale, cose così. Ma sì, guardi, allora il nostro lavoro è fatto da due grandi componenti, quella tecnologica e quella diciamo creativa. Quella creativa deve essere necessariamente coperta da persone, da umani, no? che sviluppano codici e quindi sviluppano piattaforme, sviluppano servizi, applicazioni e quant'altro. L'altra tecnologica è fatta di ferro, sono i server, sono tecnologie, sono computer. Ecco, noi abbiamo fatto in modo di mettere insieme questi due macroelementi con una attenzione particolare alla parte creativa, quindi alle persone. Persone che mettiamo al primo posto, quindi li facilitiamo su tutto. Se considerate che il 70% del nostro tempo, della nostra vita, lo passiamo in ambienti di lavoro, se quel tempo viene in qualche modo agevolato dal datore di lavoro al meglio, la società in generale funziona decisamente meglio. Quindi campi da tennis, campi da calcetto, pista running, mini club per i figli dipendenti, digital detox, certo. Perfino l'estetista. Le dovevo fare una domanda, nel senso che io trovo curioso e anche positivo che proprio un'azienda che si occupa di tecnologia abbia in realtà una zona di digital detox con anche delle regole stringenti, dove uno si scollega da tutto, anche perché credo che questo sia utile anche per trovare altre idee. Però e penso che sia anche un po' simbolico, un po' come per dire attenzione, non facciamoci fagocitare, usare troppo e sempre essere sempre collegati. Però in realtà credo che dovremmo cercare di andare verso un sistema un po' più fluido, cioè non o tantissimo internet sempre collegato o zero internet e non posso nemmeno leggere un quotidiano perché sennò devo collegarmi a internet. Quindi invece che avere una contrapposizione tra internet è troppo essere collegati, e invece il bello è camminare nei boschi nudi senza avere nessunissima connessione. Si stanno facendo delle cose per trovare una via di mezzo che sia poi, forse la vita è quella. Ma guardi, una via di mezzo noi ce l'abbiamo, almeno pensiamo di averla, e è la biblioteca, che è tipicamente una roba analogica, no? Quindi abbiamo oltre la Vetri Academy, facciamo formazione e tutto, abbiamo un'area dedicata al mondo dei libri. Certo. È un'area completamente aperta sia per i ragazzi ma soprattutto per la comunità, perché è ovviamente una piccola cittadina di provincia che in qualche modo assorbe anche necessità formative di studio, di cultura, aggiungo anche di arte, perché all'interno del nostro campus facciamo un'attività importante sul mondo dell'arte, esistono delle mostre, quindi cerchiamo di mediare questa differenza che lei diceva prima anche con la parte di libri, di cultura e di arte, diciamo tradizionale. Ottimo. Diciamo così, diciamo tradizionale, sì, ecco. Perché poi sono appunto tutte persone che sono formate a lavorare sul digitale e quindi magari tornano un ma po' gli stessi ebook, se vogliamo, sono in fondo l'unione, certo. La crasi fra le due cose, nel senso libri di Leonardo da Vinci ma lette su un device elettronico. Grazie molte. Grazie. Sì, prego. Su carta. Certo. Luca Tomassini, fondatore e presidente di Vetria, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buon proseguimento e insomma alla prossima occasione, alle prossime iniziative. Grazie a voi. Arrivederci. E ci colleghiamo adesso con un paio di ascoltatori che partecipano all'indovinello sempre più complicato questa settimana. Iniziamo da Marco da Napoli, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Marco, chi è secondo lei il personaggio della settimana? Secondo me Nicola Zingaretti. Poi posso fare un saluto? Come no? A chi? A Nicola Zingaretti? No, voglio salutare a tutte le ragazze del Bartabacchi Rendezvous di Portico di Caserta. Ah, vabbè, ma voi aggirate lo stacco. Ah, ma questo è straordinario, stupendo. Sì? Noi amiamo allora salutarle anche noi ogni tanto, però addirittura far chiamare qualcuno per il quiz inizia a essere quasi stalking, direi, ma ne siamo felici. Allora, siamo felici perché le avremmo salutate e riferisca da parte nostra che non serve mandare 48 messaggi, ecco. Abbiamo letto il primo, ecco. Ci diano il tempo. Allora, partecipiamo. Allora, lei mi ha detto Nicola Zingaretti. Per quello qual che è la notizia legata a Nicola Zingaretti di questa settimana? Ha messo giù, c'è rimasto male. Allora, no, voleva. Secondo me la notizia è che è andato al bar Tabacchi di Portici, sì. Zingaretti, forse. Non lo so, chissà. Walter, buongiorno dalla provincia di Belluno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, chi è secondo lei il personaggio della settimana? Secondo me il fortunato vincitore di Superenalotto, mi sembra. Vabbè, sì, certo, corrisponde perfettamente alla descrizione. Non mi ricordo quando è successo, però. Però non era lui. Però corrispondeva, è vero. È inaspettato, è fortunato e quindi... Verissimo. Bene, è tutto giusto, ma a parte il nome. Grazie mille. Grazie Walter, buona giornata. 824 0024 per partecipare e tra poco daremo l'ultimo indizio, però abbiamo una piccola pausa prima. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, poco fa abbiamo parlato di chi usa la stanza detox, digital detox, per, diciamo, rigenerare il cervello, ritornare un po' in una cultura, diciamo, più tradizionale, fatta appunto di fogli di carta, di chiacchiere, di studio, di dormicchiata magari, perché no? Si può, certo, fare una dormitina sulla poltrona. L'area Pisolino. L'area Pisolino, diciamo così. Adesso parliamo sempre di mondo digitale, ma sotto un altro punto di vista, cioè di chi sul web finisce per vari motivi e ci resta. E ci resta con attaccato un'etichetta negativa e vorrebbe togliersela di dosso. È quello che è capitato a Enea Angelo Trevisan, che è CEO di Elixir e autore di un libro appena uscito, Volevo essere nessuno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti in studio e buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno. Allora, appunto, abbiamo detto di chi può fare, può permettersi il digital detox, e lei lo voleva, il digital detox, voleva togliersi, no, da quella situazione. Può ricapitolare agli ascoltatori cosa le è accaduto? Lei è stato sotto processo, la cosa poi è finita bene, però appunto sì, il suo nome era lì e ogni volta si ritrovava, no, in quella condizione. Sì, assolutamente, io sono stato un po' obbligato, diciamo, perché a causa di un link online contenente un'informazione poi ritenuta da un giudice come meritevole di oblio, appunto, la mia attività professionale venne letteralmente resa al suolo e la mia vita evidentemente, diciamo, rovinata. Fortunatamente sono riuscito a trasformare una vicenda che rischiava di essere una tragedia in una provvida sventura, appunto, con la nascita di questa azienda che si chiama oggi Elixir. E questa è la testimonianza che ho voluto riportare nel mio libro, proprio per far capire alla gente che comunque se ne può uscire. Ci sono tutti gli strumenti normativi per poter, diciamo così, essere dimenticati. Quindi per battere Facebook, Google, no? Tutta la... Assolutamente sì. Tutto il gota. Tutto il gota, che io allo stato attuale, sa, il web mi ricorda un po' il mondo del far west americano della seconda metà dell'Ottocento, no? La colonizzazione era avvenuta, c'erano queste grandi infrastrutture, le grandi compagnie che facevano un mucchio di soldi, ma alla fine gli individui non sono tutelati e a fare le spese sono sempre più deboli, a cominciare evidentemente dalle donne e dai bambini. E qui possiamo parlare di revenge porn, possiamo parlare di cyberbullismo, eccetera, eccetera. Certo. Con il web di oggi avviene esattamente lo stesso. La fortuna è che è finita secondo me, la fase pioneristica ed è iniziato l'inizio di questo decennio. Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto comunque nascere istituzioni importanti che cercano di tutelare l'individuo. Ecco, speriamo veramente di essere all'inizio di una fase che vada a cambiare un po' questa... L'alba di una, certo, nuova, come dicevamo prima con la canzone. Ma senta, io voglio capire una cosa, nel senso che la famosa questione del diritto all'oblio, che come sappiamo è uno ha il diritto, soprattutto se ci sono in giro delle notizie false, che queste vengano eliminate, ma non solo le notizie false, perché sennò non sarebbe un diritto all'oblio. Quello che io mi chiedo è qual è il discrimine fra diritto all'oblio e diritto di cronaca, nel senso che uno ha anche il diritto di sapere che cosa ha fatto qualcuno. In effetti questa è una delle grandi diatribe che noi affrontiamo nei vari convegni che facciamo. Allora, il diritto di cronaca e il diritto all'oblio, dal mio punto di vista, viaggiano su due binari che sono assolutamente paralleli. Da una parte è sacrosanto il diritto di cronaca e dall'altra parte il diritto vorrebbe semplicemente andare a far sì che la gente venga dimenticata dopo un determinato periodo. Le faccio un esempio banale: si ricorda che una volta, quando non c'era internet, i quotidiani, dopo un mese che stavano sul tavolo della cucina, venivano usati per incartare il panino piuttosto che le uova. Esattamente. Certo. Allora, il concetto, dal mio punto di vista, di questo nuovo regolamento è esattamente questo. Allora, diritto di cronaca sacrosanto, però quando passano mesi, addirittura anni, è chiaro che nel suo caso 10 anni, no? È stata lunga la vicenda, 12, quindi 12. Ecco, lei intanto secondo me sta facendo un giusto discrimine e mi sembra anche divertente l'esempio, nel senso che proprio l'esempio dei giornali, cioè i giornali hanno una loro vita, proprio il giornale cartaceo, appunto, perché in quanto cartaceo è anche deperibile, a un certo punto si bagna, uno ci mette sopra la tazza del tè e quindi lo butta via e finisce. Invece i giornali, che sono in realtà partono con lo stesso concetto, addirittura sono anche impaginati uguali su internet. Il problema è che uno sono può andare immortali, esattamente, sono immortali. Detto questo, però, mi perdoni. Prego, prego. Scusi, solo un secondo, perché c'è da fare un discrimine importantissimo che dipende molto dalla tipologia di reato. Esatto, un reato socialmente pericoloso è giusto che non si venga a dimenticare chi l'ha commesso, quindi c'è da fare anche questa distinzione che è molto importante. Esatto, era lì che la volevo in realtà, perché mi è piaciuto molto anche l'esempio con il Far West, però sappiamo anche, come l'abbiamo visto in tantissimi film, proprio quasi tutti i western, dove uno si sposta nel paese di fianco e nessuno sa che tu sei il cattivissimo, perché le informazioni non solo non restano, ma proprio non viaggiano, nel senso che a distanza di 4 giorni di cavallo tu puoi essere Billy the Kid e nessuno sa niente, quindi assolutamente ha ragione ed è una cosa molto importante, tant'è che per esempio vede la distinzione della tipologia di reato, che nel diritto all'oblio non esiste, noi nell'Elixir invece l'abbiamo fatta nostra, ci siamo creati un codice etico per cui certe tipologie di reato come violenza contro i bambini, violenza contro le donne, mafia, camorra, 'ndrangheta e narcotraffico, noi non li trattiamo, ma non li trattiamo perché non si può trattare legalmente, attenzione, non li trattiamo perché abbiamo deciso per etica vostra, piacere, personale. Esattamente. Sa che cosa succede? Che in realtà non è del tutto sbagliato che certe cose restino, il problema è che non sono mai linkate, diciamo così, no, legate alla fine della vicenda, cioè tu puoi essere magari stato indagato per una certa cosa, ma rimane quello e non è legato alla assoluzione o al, no? Questo è un punto importantissimo. C'è anche un altro punto però, che oggi non vengono, la verità vera è che non tutte le fonti vengono verificate. Cioè io le posso fare esempi quotidiani, certo, di giornali molto importanti in Italia che riprendono assolutamente delle fregnacce, cioè perché l'hanno letto su un altro quotidiano o perché l'hanno letto all'estero. E questo è anche un gioco che fanno quelli che si occupano di comunicazione. Certo. Fai uscire una notizia da una parte così che arriva dall'altra, però, magari. Però esatto. Questo è un problema, sbaglio o è un problema diverso? Perché è un problema che c'è sempre stato, nel senso che dire cose false, quella è diffamazione. Ricordiamo tutti che non è che internet supera questa cosa. Se uno diffama è reato e può essere perseguito, questo è importante ricordarlo. Poi, assolutamente, perché sì. Sennò uno pensa che su internet uno possa fare qualunque cosa. Il problema. Però le faccio un esempio. Vada. No, le faccio un esempio che ci è capitato. Certo. Una ragazza di Napoli, per andare proprio nella parte, diciamo, più viva. Ragazza di Napoli che fa la barista in un centro di Napoli, ha una storia con un ragazzo, evidentemente poi si lasciano e il ragazzo pensa bene di pubblicare quei 2 o 3 video che li vedevano nell'intimità. Certo. Ovviamente la ragazza ha cercato di fare la denuncia alla polizia postale, ha cercato di fare tutto quello, diciamo, che la giurisprudenza mette a disposizione. Il risultato vero era che i link erano ancora tutti presenti nel web, cioè i filmati erano tutti presenti nel web. Siccome questa ragazza è anche madre di 2 bambini, uno di 5 anni e uno di 8, lei capisce il disagio di questa povera madre quando a scuola i compagni evidentemente la additano. Ecco. Questa ragazza tenta il suicidio, noi le riusciamo a intercettare e l'aiutiamo, perché in tutto questo è nata anche una fondazione che si chiama Fondazione Elixir, proprio per aiutare questo genere di cose. Allora, tornando a quello che lei diceva, è vero che esistono degli strumenti, la denuncia alla polizia postale, eccetera, che poi però il problema venga risolto. Questo è un altro tema che possiamo stare a parlarci per una settimana. Verissimo. No, è molto chiaro. Ma quindi, scusi, voi in realtà rendete reali, concrete e possibili delle risoluzioni, delle decisioni che prende qualcun altro. Cioè non siete mai voi a decidere che cosa ha diritto all'oblio. È sempre un giudice che lo decide? Nel senso che ci potrebbe essere il giudice che lo decida, però molto spesso non si arriva neanche davanti al giudice. Cioè è chiaro che c'è una negoziazione tra quello che facciamo noi e quello che fanno i vari quotidiani, quello che fa Google come motore di ricerca. Non dimentichiamo che Google nella sentenza del 2014 è stato ritenuto responsabile dei contenuti che pubblica, cioè è stato equiparato a un editore. Certo. Ecco che con tutti questi, diciamo, piccoli accorgimenti, senza andare in tribunale, quindi senza passare da un giudice, noi riusciamo a eliminare questi contenuti negativi. Per dirvela tutta, per fare anche un po' di marketing, l'anno scorso siamo stati leader mondiali come numero di link rimossi. Ormai voi siete tra l'altro in tutto il mondo, perché comunque negli anni, e questo è ben evidenziato, no, nel libro, via via, il problema è evidente che non è solo italiano, è di tutti, e via via lei ha lavorato in vari paesi e sta lavorando ancora in vari paesi. Sì, noi abbiamo uffici in 28 paesi e quando io all'inizio sono partito dall'Italia pensando che l'Italia fosse un paese dove queste cose non funzionavano, mi sono reso conto, per la verità, che per esempio in Sud America ci sono dei paesi che sono molto peggio dell'Italia, cioè tutta la parte di informazione negativa viene utilizzata evidentemente per cercare di togliere di mezzo dei politici, degli nemici. Infatti politici. Ho visto che esatto. descriveva questo passaggio. Sì. Ma mi scusi, ma esiste il rischio che qualcuno in realtà voglia cancellare delle informazioni perché gli fa comodo che vengano cancellate, ma che in realtà sarebbe corretto che tutti sapessero che lui è, non so, un truffatore? Cioè, faccio un esempio qualunque, lei ne conosce sicuramente di migliori. Nel senso che uno viene da lei e dice: io questa cosa qua non voglio che proprio tutti lo sappiano che io ho avvelenato la mia prima moglie. Però fa parte del codice etico, però. Allora, questo fa parte del codice etico, però tornando alla truffa, abbiamo dei clienti che magari erano dei truffatori, sono stati in galera, hanno pagato, eccetera, e questi sono usciti e viva Dio, hanno il diritto di ricostruirsi, certo, di ricostruirsi una vita. Ci mancherebbe. Dipende sempre dal lasso di tempo che è passato, cioè se ci arriva il truffatore che ha truffato il mese scorso ed è sotto processo, evidentemente noi non lo trattiamo. Se ci arriva un truffatore che magari aveva fatto una truffa, avrà stato indagato per truffa, perché ricordiamo che in Italia il reato di truffa ha dei confini molto labili, sì. Analizziamo la situazione, noi all'interno abbiamo un comitato etico, analizziamo la situazione e decidiamo se possiamo dare una mano o no. Ecco, certo, ma non dovrebbe essere un giudice, perché stiamo praticamente parlando di prescrizione, e io quello che mi chiedo è: non dovrebbe essere un giudice che decide se quella cosa si può o non si può cancellare? Beh, molto spesso noi passiamo per dei giudici o passiamo per quello che in Italia viene chiamato il garante della privacy, che è questa istituzione, certo, che decide appunto se uno ha il diritto. Sì, è un lavoro che noi facciamo, adesso la percentuale, dire la percentuale è intorno al 60%, cioè il 60% è un lavoro prettamente che facciamo noi, parlando direttamente con i quotidiani o parlando con i motori di ricerca, e un 40% invece ci affidiamo, quando sono casi un po' più complicati, ci affidiamo a avere in mano una sentenza anche noi, perché stiamo sempre molto attenti. Sa, questo è un lavoro che è come avere una pistola in mano, no? Esatto. Si può andare a far la guardia alla banca o si può andare a saltare la banca. Quindi, esattamente. Ma poi, come voi lavorate in questo modo, c'è chi magari potrebbe lavorare per cancellare senza le stesse. No? È quello che mi preoccupa, nel senso, adesso usciamo facile, da immagino. Abbiamo parlato dell'argomento, che trovo che sia un argomento in realtà fondamentale, ci mancherebbe altro. Faccio un ragionamento che esula forse da l'argomento nello specifico, ovvero ultimamente si sono viste tutte queste ricerche statistiche per cui un'altissima percentuale di italiani nega la Shoah, per fare un esempio. Ecco, certo, decidere di cancellare la Shoah da internet è ovvio, sto andando per assurdi, non è che è una questione vostra. Io vorrei che non fosse un comitato etico di un'azienda privata a deciderlo, ma non so, l'ONU, non lo so adesso. No, sono d'accordo, capisce? Con lei per due aspetti. Il primo, perché avevo la nonna ebrea e quindi sono d'accordo con lei. Ci manca. Ottimo. No. Il secondo, però, vede, non è così facile, cioè mi spiego, la cancellazione delle notizie negative per internet non è che noi ci alziamo la mattina e schiacciamo un bottone on off. È certo, un procedimento molto complesso che passa comunque al vaglio di molte autorità o necessariamente di molti interlocutori. Quindi sa, dipende, ci sono, io so di aziende in Sud America che per esempio cancellano, adesso per non parliamo di Shoah, ma parliamo di narcotraffico per esempio, no? Cioè il narcotrafficante che fa certo, un po' di volte, che non riesce più a aprire un conto nel mondo, a un certo punto viene da noi, lo mandiamo evidentemente a spendere, va da un altro, paga il doppio e la cosa si fa. Però sa, questo è un po' un ragionamento vecchio come il mondo, cioè ne possiamo fare mille di questi esempi su tutti i vari settori, no? Cioè, noi cerchiamo di fare un lavoro rispettando un'etica, e purtroppo nel mondo c'è comunque chi lo fa in maniera diversa. No, no, chiaro, è chiarissimo. No. Purtroppo è così, però dai, si può fare anche fare bene, può fare sì, con etica. Speriamo di riuscire a continuare a farlo così. Grazie. Grazie mille. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Ene Angelo Trevisan, ricordo il titolo del libro, Volevo essere nessuno, edizioni Mondadori, scritto con Francesco Francio Mazza. Abbiamo la viabilità. Si può fare. E abbiamo due concorrenti per il nostro indovinello. Il primo è Luigi da Lecce. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Luigi, chi è il personaggio secondo lei? Allora, io penso che sia quel signore americano che un po' di anni fa aveva acquistato un Rolex per $365 e poi ha scoperto, partecipando ad una trasmissione, che adesso vale $700,000. Sentiamo un po' cosa dice. Il notaio evidentemente per invidia non ha convalidato, perché giustamente accorgersi di un orologio, abbiamo letto tutti questa notizia, non era lui il nostro personaggio, ma la ringraziamo di aver chiamato. E abbiamo adesso Fabrizia, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Fabrizia, giusto, ho letto bene. Sì. No, perché mi è cambiata la scritta davanti agli occhi. Chi è secondo lei il personaggio della settimana? Secondo me Matteo Salvini. E come mai Matteo Salvini in questa settimana? Qual è la notizia? Lui pensava di stravincere e invece la sua candidata, la Borgonzoni, alle elezioni... Però non è fortunato in questo caso. E ci teneva a dire che aveva perso. La vera cosa che adesso dovremmo capire dal notaio se lui tecnicamente ha perso, che era già lunedì o era ancora domenica, perché si sono chiuse alle 23. No, comunque le urne. Non corrisponde al secondo indizio. Non corrispondeva al secondo indizio. Grazie Fabrizia. Ci saluti vero, anche il quattro zampe che sentiamo in sottofondo. Dunque, abbiamo anche Cristina da Roma. Cristina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno. Allora, sentiamo. Per me è Amadeus. E qual è la notizia? Beh, la notizia è fortunato perché comunque presenta il Festival di Sanremo e poi... Quindi lei dice è fortunato, non è bravo. Quindi è fortunato, no? Come noi italiani che non abbia vinto Salvini, siamo fortunati. E poi tutte le polemiche, insomma, che ci sono state. Sentiamo il notaio. Ma non era Amadeus. Non era Amadeus. Grazie, io avevo letto in questa maniera, nel senso che mi sembrava bello che una donna, visto che Amadeus sceglie le vallette secondo la loro bellezza, dice evidentemente te t'hanno scelto secondo la tua fortuna. E quindi mi sembrava un bello, però penso che sia un viaggio mentale che mi sono fatto io. Grazie Cristina. Allora, è il momento del premio L'altro pianeta. Premio L'altro pianeta. Il premio L'altro pianeta questa settimana lo attribuiamo alla memoria di Homero Gonzalez, che è stato ucciso. Era un attivista messicano che proteggeva le farfalle monarca dal disboscamento illegale. Il suo corpo è stato trovato proprio questa settimana e quindi abbiamo deciso di fare questa operazione un po' diversa dal solito e ci colleghiamo con Isabella Pratesi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Isabella Pratesi, ovviamente del WWF, il suo nome è noto penso alla maggioranza dei nostri ascoltatori, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia, scrive tra l'altro sull'Huffington Post. Isabella, vorremmo ricordare insieme un po' questa figura di Homero Gonzalez e poi magari se riesce a dirci un po', perché è un anno tragico, diciamo, per gli attivisti dell'ambiente in Sud America. Sì, allora iniziamo da Homero, che vale veramente, ha bisogno di essere ricordato perché era una persona particolarmente straordinaria, perché era un attivista che era nato nel fronte opposto, perché fondamentalmente era nato in una famiglia di boscaioli che tagliava le foreste e invece si era improvvisamente appassionato di questa straordinaria farfalla, che è la farfalla monarca, che fa queste migrazioni addirittura dal Canada fino al Messico. Ancora non si sa bene le ragioni di queste migrazioni, comunque viaggia per migliaia di chilometri, ma per vivere ha bisogno delle foreste, perché in queste foreste lei si riproduce e sverna. E fondamentalmente Homero difendeva le foreste dove la farfalla monarca arrivava in Messico, e noi sappiamo che purtroppo il Messico è uno di quei paesi della deforestazione illegale, quindi lui combatteva contro chi voleva distruggere l'habitat delle farfalle monarca. E aveva anche un santuario, giusto? Il santuario delle farfalle. Aveva creato una grandissima area protetta che era stata addirittura riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, quindi era veramente una di queste persone che nessuno conosce, perché lavorava con i piedi per terra e con la testa nella sua foresta e col cuore nelle farfalle, ma ha dato la vita per questa sua passione. Fondamentalmente lui ha fatto un regalo a tutti noi, perché se ancora oggi queste farfalle continuano a migrare è stato grazie anche al suo lavoro, e dobbiamo ricordarlo e dobbiamo avere l'ispirazione affinché veramente tutti facciano di più per questi animali, perché stiamo perdendo una biodiversità straordinaria. Esattamente, stiamo perdendo una biodiversità, stiamo perdendo anche molte persone che si battono per la biodiversità. Questo non può certamente invogliare i singoli a combattere, no? Bisogna unire le forze e stargli vicino, ecco. Stargli molto vicino. In Messico, considerate che soltanto nel 2018 sono stati uccisi 14 cosiddetti ambientalisti, paladini dell'ambiente, io direi eroi, perché poi sono persone che difendono i fiumi dalle dighe, che difendono le foreste, che difendono specie in via di estinzione, ma nel mondo è una catastrofe perché centinaia di ambientalisti e di difensori degli ecosistemi vengono uccisi. Soltanto nel 2018 abbiamo avuto più di 200 persone uccise nel mondo. Il Sud America e il Centro America sono dei paesi molto pericolosi. Il Messico in assoluto forse è il paese più pericoloso per chi vuole proteggere l'ambiente. Il Messico purtroppo in alcune aree non solo per la difesa dell'ambiente ma anche per la difesa dei diritti civili, per tante situazioni è un paese complicato. Spesso poi sono persone che in realtà difendendo l'ambiente difendono i diritti delle comunità locali, che hanno diritto a quell'acqua, che hanno diritto a quelle foreste, quindi i due aspetti sono molto integrati. E sì, purtroppo il Messico, poi ci sono questi interessi dei cartelli della droga che sono collegati anche agli interessi di chi sfrutta le risorse naturali distruggendo. La deforestazione illegale è una piaga drammatica ed è una piaga che spesso si accompagna appunto ad altri crimini come al commercio di droga, al commercio di armi, eccetera. Quindi insomma è una catastrofe di illegalità che va fermata. E Omero ci ha dato un segnale molto forte. Io spero che il governo messicano raccolga l'eredità di Omero e faccia il possibile perché i luoghi che lui proteggeva continuano ad essere protetti, e fermare la deforestazione. Grazie Isabella, grazie molte per questo ricordo di Omero e dei tanti che si spendono per l'ambiente. Carlo, volevi... No, sono commosso e soprattutto condivido molto le parole appena dette, perché credo che il fatto che la criminalità organizzata si accanisca e ammazzi questi ambientalisti che definirei tranquillamente dei martiri, lo trovo incredibile, perché spesso, come si stava dicendo, che loro difendono anche le comunità, perché nel momento che uno dice non mi va bene che si faccia così, anche se lo fai per le farfalle, poi intorno le persone iniziano a dire beh, allora a me non va bene nemmeno l'acqua che la rubano tutta loro, e quindi forse è il caso di rivoltarsi contro questi cattivi, ed è per questo che loro hanno molta paura e ammazzano gli ambientalisti. Grazie, arrivederci e risentirci a Isabella Pratesi, direttore del programma di conservazione del WWF. Non so se è ancora in collegamento comunque. Sì, sono in collegamento. Grazie, grazie molte. Grazie molte Isabella. Voi, grazie alle persone che accompagnano la conservazione della natura. Un abbraccio. Grazie mille. Abbiamo in collegamento anche Alessandra da Roma, temo l'ultima concorrente per il personaggio di oggi. Sentiamo Alessandra. Sì, ciao. Ciao. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Il personaggio è il ragazzo che ha vinto al milionario. Perché ha vinto, ovviamente. Sì, ha vinto 1 milione di euro. Beato lui. Ma sappiamo anche il nome? No, non lo so il nome. Sentiamo il nostro... No. Non era lui, no. Ho chiesto il nome, ma era solo così. Il nome è Enrico Remigio, leggo da internet. Okay. Ma non era non il personaggio lui. Della serie. Te l'avremmo dato anche senza il nome, comunque, ecco, sappi. Un bacione al mio baby che è in macchina con noi. Certo. Sì, certo, anche alla tabaccheria di Caserta, se vuole. Ma sei in macchina con voi, però ti conviene dirlo direttamente a lui, no? Beh, è tutta un'altra storia per radio. Giusto, è vero. Auguri, grazie. Una buona giornata anche ad Alessandra da Roma. Ci ricordano che oggi è lo 0202 2020, che si legge è una data palindroma. C'è un bel pezzo di Stefano Bartezzaghi su Repubblica. Divertitevi con questa data, che poi capita adesso e non capita più, non so, bisogna mettersi a fare i conti, però non credo che ce ne saranno a breve scadenza. Carlo, cosa facciamo? Ci salutiamo, è finita anche questa settimana. È finita settimana. Anche questa settimana, ma tanto ci risentiamo sabato prossimo alle 8.30, giusto? Precisamente, sabato prossimo alle 8.30 in redazione ringraziamo Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, Danilo Ditrani, in assistenza oggi c'è Alessandro Longoni, in regia Carmelo Lauricella, da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana e ciao! E ciao anche da Carlo Gabardini e buona domenica!